Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. Buonasera a tutti. Il carnevale è finito, quindi penso che tanti si saranno messi in dieta. Allora un saluto affettuoso da parte di Gesi e di Antonio. Allora tu, Antonio, ti sei messo in dieta? Beh sì, non da oggi. Non da oggi? Io mi sono messa in dieta perché ho mangiato tante frittelle e tanti crostoli. Benissimo. Bene, allora a te. Un cordiale benvenuto alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto per questo percorso ideale nei sentieri della memoria. Ricordiamo il nostro indirizzo internet che è bluradioveneto.it, il numero di telefono per sms, consigli, proposte, suggerimenti, proteste ed altro che è il 346 23 20 033. Ricordiamo anche che è possibile l'ascolto in streaming e il relativo download della trasmissione, senza dimenticare naturalmente un saluto al nostro regista. Ciao Eddie. Allora stasera abbiamo un ospite in studio, proprio un ospite in carne ed ossa, ed è il signor Fabio Franzin di Motta, che dopo la prima canzone saluteremo e daremo a lui la parola, che ci dirà tante cose perché ne ha tante da dirci, ha detto. Con lui è venuta anche Madame Verdurin, cioè la signora Lia De Martin del Club Verdurin di San Pietro di Feletto, che noi salutiamo calorosamente. Allora passiamo alla prima canzone in programma, che è cantata da Claudio Baglioni, Poster. Seduto con le mani in mano sopra una panchina fredda del metrò, sei lì che aspetti quello delle 7:30 chiuso dentro il tuo paltò. Un tizio legge attento le istruzioni sul distributore del caffè ed un bambino che si tuffa dentro ad un bignè. Segna l'1 e 10 da 2 anni qua, il nome di questa stazione è mezzo cancellato dall'umidità, un poster che qualcuno ha già scarabocchiato, dice vieni in Tunisia, c'è un mare di velluto ed una palma e tu che sogni di fuggire via. Due donne stanno parlando con le braccia piene di sacchetti del lupin ed un giornale aperto sulla pagina dei films. Sui binari binari, quanta vita che è passata e quanta che ne passerà. Quei due ragazzi stretti stretti che si fan promesse per l'eternità. Un uomo si lamenta ad alta voce del governo e della polizia. E tu che intanto sogni ancora, sogni sempre, sogni di fuggire via e andare. Eccoci di nuovo in studio e questa volta salutiamo il nostro ospite, il signor Fabio Franzin. Buonasera Fabio. Buonasera Fabio. Buonasera a voi, grazie. E grazie di aver accettato l'invito di venire qui con noi stasera. Grazie a voi, grazie a voi. Per farci così, darci un quadro delle tutto ciò che lei ha scritto in dialetto, so che ha scritto molto in dialetto. E prima di tutto sentiamo Antonio che ci legge un po' delle note biografiche, sì, naturalmente. Sì. Allora, Fabio Franzin è nato a Milano e vive a Motta di Livenza, in provincia di Treviso. Ha pubblicato le seguenti opere di poesia nel dialetto veneto-trevigiano dello Pitergino Mottense e il Coeur de Paroe, Roma, Zone, 2000, prefazione di Achille Serrao. Pare, padre, Spinea, Helvezia, 2006, introduzione di Beppi De Marzi. Muschio Eroe, Muschio e Spine, Sasso Marconi, Le voci della luna, 2007, seconda edizione 2008, introduzione di Edoardo Zuccato, premio San Pellegrino Terme 2007, super premio Insula Romana 2007, premio Guido Gozzano 2008, fabbrica Borgomanero Atelier 2009, seconda edizione 2010, premio Pascoli 2009, premio Baghetta 2010, Rosario de Sienzi, Rosario di Silenzi, Rosni Venec Istigine, Postaja Topolovie 2010, edizione trilingue con traduzione in sloveno di Marco Kravos. Silenzio e Orazion, Silenzio e Preghiera, prefazione di Franca Grisoni, Motta di Livenza, edizioni prioritarie 2010. Coeman Monche, Con le mani mozzate, Milano, Le voci della luna 2011, con prefazione di Manuel Cohen. Premio Achille Marazza 2011. In lingua, Il groviglio delle virgole, Grotta a mare, Stamperia dell'Arancio 2005, premio Sandro Penna 2004, sezione inedito, con introduzione di Elio Pecora. Entità, in ebook, Biagio Cepollaro Edizioni 2007. Canti dell'offesa, Cesena, Il vicolo, con introduzione di Gianfranco Lauretano 2011. In lingua e dialetto, Margini e rive, Città Nuova, Roma 2012, nota di Daniele Piccini. Nel 2009 la rivista Atelier gli ha dedicato monograficamente il numero 53. Nel 2010 ha vinto il premio Giacomo Noventa Romano Pascutto e nel 2012 il premio Tito Maniacco. Sue poesie, accolte in molteplici riviste in Italia e all'estero, sono state tradotte in inglese, francese, cinese, arabo, tedesco, spagnolo, catalano e sloveno. Allora, qui abbiamo un asso della poesia. Mamma mia! Concentrato di poesia. Qui, per passare in rassegna un pochino tutte le tue opere, bisognerebbe che facessimo 10 trasmissioni e più. Intanto iniziamo con questa. Ecco, intanto iniziamo con questa. Allora, quando hai cominciato a scrivere, Fabio? Ho incominciato a scrivere relativamente tardi, intorno ai 25 anni. Io non ho potuto andare a studiare, oltre la scuola dell'obbligo, perché i miei genitori di umili origini non potevano farmi studiare. Io ero il figlio maggiore, e quindi sono entrato in fabbrica a 15 anni. E ho letto tanto, perché la letteratura faceva parte della mia anima, ho scoperto da subito, E poi ho incominciato a scrivere, come lo dicevo, relativamente tardi, perché avrei incominciato a scrivere anche prima in realtà, solo che così pensavo di non avere gli strumenti, no, non avendo studiato. E poi un giorno, leggendo la biografia di Grazia Deledda, ho visto che lei, avendo fatto la quinta elementare, aveva vinto il premio Nobel. Ho detto, beh, io che ho fatto anche le scuole medie, almeno posso provarci. Ecco. Certo. Ma hai detto che sei nato a Milano? Sì, sono nato a Milano perché i miei genitori entrambi sono andati a Milano a lavorare quando qui non c'era lavoro, come sta sì, di nuovo adesso, succedendo sì. Adesso. Sì. E mia madre serva in casa di signori e mio padre faceva l'imbianchino. Poi quando io avevo 6 anni sono ritornati in Veneto, a Chiarano, dove è il paese natale di mio padre, e lì sono vissuto, spostandomi di poco, insomma, a Motta di Livenza. Sai, io quando sento nominare Milano, la mia Lombardia, mi si apre il cuore, perché io sono di Mantova, originaria di Mantova, quindi ho un debole per la Lombardia, ecco, la verde Lombardia, sotto il ciel di Lombardia. Così bello quando è bello. Sì. Allora, io penso che sarebbe opportuno dare un saggio un po' di qualche tua poesia. Sì, io vorrei, se mi permettete, sì, leggere, visto che è da poco passato San Valentino, vorrei, se mi permettete, leggere una poesia d'amore. Non le pecà, ragarna rosa da roser, se ti che te aspetta, te aiuta a sera a fiorir di un canto. Intanto e paveia e me saiuda, e dal fondo dell'aria more il ciaro te a grazia dell'ort. La ziga a sepuda te appaiata. E mi son vestita a festa, ho una camisa bianca come un foglio. L'ho messa su perché ti te che scrive sola un poema de carezze. Molto bella. Evocativa. Non ho capito la parola palada. È la rete di recinzione. Ah, ho capito, perché tante parole dialettali non le capisco. Bene, andiamo con qualche altra. Sì. Vorrei leggere una poesia che mi sta molto a cuore, e scrivo e dico anche perché. Mia madre, questa poesia parla del presepe, che mia madre ogni anno era usa a fare sopra la credenza. E un anno, mentre noi eravamo fuori a Muschio, mia madre si era spenta la stufa e ha avuto, con l'alcol accendendola, ha avuto un ritorno di fiamma e si è ustionata gravemente. È stata un anno al reparto grandi ustionati di Padova, e noi eravamo piccolini. Insomma, quel presepe è rimasto sopra, prontato, è rimasto sopra la credenza per un anno, finché lei non è tornata a casa. Però questa poesia vuole anche dire la trasformazione che c'è stata, e tutto il mio lavoro in poesia è incentrato su questo, sulla trasformazione che c'è stata rapidissima fra la fine della civiltà contadina, l'avvento della civiltà industriale con la mutazione del paesaggio, con gli interventi sul paesaggio così cantati con trepidazione da Zanzotto, e poi adesso questa deindustrializzazione, questa crisi che sta arrivando. Presepio di Aeto. Che a strabenedetta buona voglia che te ciappa de far sul presepio ogni anno, e ogni anno pi grando, pi bel, a cura che te che mette po a passion, là, cuzzata partera, drio il canton de assai a ti così mai andata, che se ho capisse, sa tu, quante che te dioli de noci dopo, co te leva su. Là a puntare il ciel pien de ste coi brocchette tel muro, a pudar tutte i piegore tel muscio, e poi il fuoco quei lucette che baca sotto a carta dei naranze, e scorze d'oro pal tetto, e stradee dei ierin, e il pozzo, l'acqua, che scorrete un lette e stagnoi a lui il Gesù bambin, coi brazzetti verti fra paia e un nido de bacchetti incrosati. Paine vodeti, lo so, capisse, ma ti non te capisse che noi pi tempi erei ion. Che mi no pi tempo di andare in cerca del muscio che ti occorre, che non so più dove andare a catarlo, po'. e che noi che crede pi boce, le pil de gaio chi fa su, che dopo te sacramentea attaccar col scotch a carta chi sbrega pa toccar coi dei ste, a cavar via dal muscio i sassetti de stradae sbarade, a mettere in pie e statuete ribaltate, che mi vignarais quasi voglia de dirte basta mare, asse a star sta poesia santa, e varda i nostri paesi piuttosto, varda. Che sarai da impenire il muscio, muscio che sto anno vi sparfinte e scansie lì per cop, che io vendea, capissi tu, i vende ca quel romai, pinze de muscio serade tel nailo, che forse arriverà da Cina anche a quel, che sarei da impenirlo, che il muscio, que scatole de scarpe co que de tomedesine de mecci che cusì assomigliar tutti sti capannoni, i centri commerciai, che le quea, romai, a realtà che i tonevo de ti conosce. E il tubo della carta d'accesso a fare ciminiere, i remagi farli arrivare sopra le macchinette de mefiol, al modein di un gipon, di una BMW, di una Mercedes, altro che camei, che il Gesù bambino non va in television, ti reality, ti talk show, e allora non esiste, capisci tu, non è un VIP, non conta più niente. Vardene, mare, sen qua mieti, ti qua tue statuette il muscio, mico e me pore parole il diaetto, vardene, sen qua a provare a tenere fermo un mondo che scampa via sempre più depressa, infagotando dei sentimenti, popoiando da erba e pastori, de storie che sa da fen, da muffa, fen proprio da rider. Vardene, ascoltami, noi più posto qua pa' i presepi, noi più posto pa' i pastori, pa' i parole, pa' i paesi e il paesaio, pa' a pase. Però ascoltami, mare, darò in cerca del tuo muscio anche l'anno prossimo, ti ho promette. Continuerò ad andare in cerca delle parole vecchie ogni dì, pa' me poesia, pa' il presepio e pa' i nevodeti che mi arriverà anche a me un dì. Che bella, molto bella. Commovente. La trasformazione mamma, del paesaggio. Però, poverina la mamma, chissà, perché noi mamme, sentire così che il mondo cambia, ci fa un po' di dispiacere, vabbè, purtroppo la vita è così. Bene, ci fermiamo un momento per un'altra canzone, che è la seconda canzone in programma, intitolata Com'ero vecchio, cantata da Adamo. Spazio a chi si credeva importante. Eccoci di nuovo in studio con il nostro Fabio Franzin, che ha detto che queste poesie che ha letto sono state tratte dalla silloge Muschio Eroe. Muschio Eroe. Adesso cosa ci leggi? Adesso vorrei leggere una poesia che mi sta molto cara, che nel 2003, mentre avevo mio padre che mi stava lasciando, al contempo avevo mio figlio che stava arrivando, il mio secondo figlio. E quindi mi sono trovato fra i confini della vita. E sta poesia si intitola Fra i confini della vita. Ed è tratta da... Ed è tratta da Pare. Ah. Sti strambi giorni di autunno, ora così caldi e ciari, ora così coverti e afosi, così caivosi. Un sigo il vento ieri notte, e scuro scuriar de frasche, contro le finestre fui scade dell'ospedale. E i nidi? Pensé, seguì necchio che metterà un teon sotto gli alberi. E poi incorda c'è pa' prima volta che il zal dei settembrini sciopadri verive de alivenza, e il farima con quel de foglie dei pioppi piantati lungo i soardeni. Sti strambi giorni d'autunno, e i fogli del calendario chi me casca stonfi dai man, dicendo de na vita che l'è quasi di arrivar, ed è una che massa sguelta a scampa via. Quei stessi lavari che ho basà a fronte ma è ada de me pare, d'esse scolte sti colpeti lidieri, sti calcetti cei e bei, pudandoi te a panza piena de me femmina. Piove foglie rosse des, ti iniziò i futignadi, dri bianchi corridoi sgraffati dal doeor. Ed è so, qua prima è detta dei sicurezze che quel che mi ha data vita e quel che da mi lavarà non riuscirà a incontrarsi. So che me pare, nonostante tutto il suo ben, non me sarà far festa pa a nascita de me fiol, e so che a nascita de me fiol non me sarà piander me pare come che il meritarae. Mi son qua, con la man strenta pa provare a tenere duro, e che altra verta aspettar, pronta a ninar. Non so, co quae adedo, e pie posso scriver ste parole. Bella. La staffetta della vita. Bella, bella, proprio bellissima. Complimenti. Grazie. Complimenti, complimenti. Poi, emozioni vere. Volevo dire che a un certo punto la mia poesia, che sulla scia di Pascutto, sulla scia di Zanzotto, era molto legata al paesaggio, alle siepi e ai fossi della nostra terra, insomma. Poi pian piano che le scrivevo mi accorgevo che i fossi e le siepi che io cantavo stavano sparendo, occupate dai centri commerciali, dai capannoni, e al contempo io, operaio, vedevo che degli operai se ne parlava solo quando morivano nei luoghi di lavoro, se no non esistevano, e ho deciso di scrivere su queste tematiche. E sono venuti Fabbrica e Coe Mammonche, e questa è stata una svolta della mia poesia e anche della poesia in dialetto, perché finora con il dialetto raramente ci si era occupati di temi sociali. Certo. Allora, adesso questa poesia come si chiama? Adesso ve ne leggo una da Fabbrica, si intitola Marta. Marta, la 43 anni, da 25 a grata cornise qua carta de vero e il tampon a gerussa via vernise dura dai curve del legno, e che resta come un segno te man, carezze che sgrafa e onge curte da on, i suoi bei cavei biondi e boccoiosi e adesso un groppo de spaghi stopposi che nessuna perucchiera può più tornarizzar. Qua cata e so care amiche, maestre o segretarie, che par che si è tant più giovane dea, ag invidia che onge cusi rosse e longhe, i cavei lissi e luminosi, chi dei ben curati, cui si para Drio e Rece, i recini. Le varda e spessa pensa al suo destin, tutta una vita persa a grattar, a grattarsi via dal corpo, a Beezza. È vero, eh? Sono realtà sulle quali non c'è niente da discutere, purtroppo, è così. Leggiamo un'altra. Leggo un'altra sugli incidenti sul lavoro. Sì. Un sigo e poi il nostro correre verso il compagno che Zadrio portar via. Una somman infagottata del traversone nero del capo e che amaccia de sangue scuro là, te segadura. Come un continente nuovo te una carta geografica del lavoro. Così de sest, te segadura. E io se perse drio i reparti par che segni un sentiero de due or. Poco il bisi bisi bas fra un silenzio che pesa. Se va in cerca dei dotochi de Deo, come che altre volte, se cerca il caibro, il boro, a chave da disdotto. Calcun varda che all'ama colpevole. Poi il capo ne ricorda che non sen qua pa perderse via. Se torna ai socchi, drio i tocchi da far, coi dei che trema. Belle, belle. Ci interrompiamo un momentino e facciamo una poesia in italiano? Mm. Posso? Vai. Ecco. Allora, volentieri. I casolari, da che silose hai detto prima? Da? Margini e rive. Margini ed e rive. È dedicata ad Andrea Zanzotto. Ah, ho capito. Fidanzati dell'erba, abbiamo vissuto nella pianura misurando i passi fra un fosso ed uno scolatoio con lo sguardo sognante. Là in fondo alle montagne, nelle orecchie la conchiglia che mormora onde così simili alle zolle di terra scura di un campo appena arato. Arata via anche la terra dalle nostre campagne per piantare centri commerciali, industrie. Ora i tuoi ossari, caro Andrea, sono tutti questi casolari, questi casoni colonici che crollano a pezzi, rosacei, fra ortiche e ignoranza, fra Mercedes e un dialetto che non vuol più possedere le parole accoglienza, letame, che ha arato via sorrisi e valori insieme alla fatica, che conta avido i suoi soldi nascosti alla moglie e al fisco che, così troncato, tradito, lo vorrebbe persino insegnato nelle scuole. Rivolgersi ai casolari con il più disperato rispetto. Io oggi, vagando per questa pianura soffocata fra il grigiore degli outlet e delle fabbriche, fra questo verde strangolato, compio il mio consueto pellegrinaggio intorno a questi mattoni rossastri e a questi tre travi in croce. Mi soffermo a pregare. Flori ortiche alte come disgrazie. Ascolto le morti voci di chi seppe possedere un cuore passare come voli rossacei tra le foglie dei pioppi. Prego per la terra in un dialetto che faccia rima con rispetto e spero soltanto che l'erba lo accolga. Grazie. Leggiamo l'altra. La fotografia dell'esistente, sì. Adesso leggiamo Pane e parole. Questo è sempre della stessa No, questo è da Rosario, Silenzio e Orazione. Allora, pane e parole sono sempre state il mio pasto, la mia carestia. Sempre è stata carestia di lusso nella mia vita, caro Dio. Tu lo sai. E sai che mai ti ho chiesto qualcosa in più che sempre ciò che mi hai donato mi è bastato. Ma le parole che farciscono quelle due fette di pane sono ancora una volta le mie, quelle che ho graffiato via dal ghiaccio, dal silenzio. E la fame che mi cresce dentro è quella delle tue, di una sola, almeno. Fammi sapere se ti sono caro. Se ti sono importante, falla anche tu la tua parte. Sarebbe ora, no? Non ti sembra? Mandami giù una particella di pace, una voce fatta solo di un raggio di luce. Sono qui, fermo, con le mani aperte che l'attendo al buio, con le fette di quel pane ormai raffermo. Ecco, adesso a voi la parola, chi vuol leggere. Leggo una poesia da, siccome io sono senza lavoro purtroppo da 2 anni e vorrei far capire cosa succede in una famiglia quando il capofamiglia perde il lavoro. In cuo me fio al pipico e le rivada a sua cameretta con poche de macchinette rote in man, rodee e tocchi de plastica che ghe caschea fra i piastre del pavimento, a sua voseta prima dell'u, ladrio il corridoio. Papà, se non riesci a trovare lavoro in una fabbrica, potresti fare il meccanico che aggiusta le macchine. Intanto incomincia a aggiustare le ruote mie di queste, le ruote di queste mie che sono rotte. E allora mettermela con cassavide ceo e a pazienza che non ho mai bu, a provare una rodea cavata de qua e una attaccata de a, a tornare a far correre che macchinette. Chissà se il destin avrà la stessa pazienza con me, se che sarà un qualcun bon de tornarmi a vidare i sesti, te man, perché possa tornar a correre anche l'ore, pal pan. Bella, questa è tratta da... Da quei mammonche, ho capito, con le mani mozzate. Bella, bella, bella, bella. Tu, Antonio, non ne hai qualcuno in italiano? Oh, potrei eventualmente... Beh, certo che al cospetto, diciamo, di queste... densità di queste cose, come dire, di queste dimostrazioni, io non so come forse l'ho detto altre volte, la poesia è una sintesi della vita, è qualcosa che, come in questo caso abbiamo visto, il poeta si mette a nudo senza pudore, perché non ha bisogno di pudore, non è uno che si vende nelle piazze, certo, o in televisione come fanno tanti. Il poeta si denuda come testimonianza, questo è quello che penso io. Sì, e poi c'è anche da dire, secondo me, che il dialetto è una lingua più concreta, che più riesce a dire le cose con maggiore intensità. Decisamente. È una che poi, più che dialetto, è una lingua, la nostra, che ha una forza straordinaria. Leggerei Guarda quegli operai. Guarda quegli operai, nota come sono assorti fra i loro pensieri mentre si concedono una sigaretta seduti contro il muro della fabbrica. Guardali, stanchi e sporchi, con i jeans che un tempo erano alla moda ed ora sono solo un paio di brache troppo corte e rattoppate, con quelle camicie sbiadite, le scarpe lerce di colla o di oliaccio, ciglia e capelli gialli di segatura. Sembrano quasi dei clown fuggiti da un circo, così ridicoli e malinconici come i comici del cinema muto, e muti sono anche loro perché la fatica gli ha estirpato la parola. Guardali ora mentre schiacciano la cicca sotto i piedi e a capo chino ritornano dalle macchine che attendono ancora i loro atti servili, i sogni volati altrove. Bella, sono tutte molto intense. Vorrei dire 2 cose. La condizione della fabbrica l'aveva già scritto Simone Weil, una grande filosofa di origine francese che ha voluto capire cosa voleva dire entrare, lavorare in fabbrica per capire la fatica e cosa chiedevano gli operai quando manifestavano, e ha scritto un libro fondamentale che si intitola La condizione operaia. Questa è una cosa, noi troppo molto spesso, soprattutto qua nel nord-est, abbiamo indagato l'ex miracolo economico solo dal versante con lo sguardo rivolto alla capacità imprenditoriale di creare questo benessere. Non abbiamo mai indagato su chi ha supportato questa capacità imprenditoriale lavorando 10-11 ore al giorno, lavorando il sabato e la domenica, lasciando qualche ditta. O qualcos'altro, e la salute, magari rimettendoci anche la salute. Ora che questa cuccagna è finita, siamo arrivati a me piace fotografare come delle istantanee, e io vorrei leggere questa, l'ultima cosa che ho scritto inedita al discount. Ecco qua, è il popolo. Zente fiaca che fraca il socarel, che varda, ciapa in man, palpa un pomidoro, un pacchetto di biscotti da cassette e scafai, che suffia pa' verdere i sacchetti, pa' slargar ben i guanti, che spetta l'offerta, e il tre pardote a pasta, e sconto del 40, perché i schei non basta pi, perché gli cascadi de novo te a miseria, e crompa vovi al posto de a carne, che uniche ste che vede te sociel, le equete il brodo de a minestra. Do su tre i pensionati, che altri che resta cassi integrati, e il 40% di chi che è qua incuola un reddito da fame. Lo vede coi meoci, proprio adesso, lungo il banco dei frighi, fra i mozzarei e yogurt, e il brinca un tocco di grana, e sguelto lo sconde drento a scassea del suo paltò griso. E a me che il sest, e me fa mal. Non son più bon di dirgli ladro. Spera sol che non io becche. Ah, che bella, che bella. Bene, ci fermiamo un attimo per un'altra canzone, che è una canzone cantata da Mina, ed è intitolata Insieme. Io non ti conosco, io non so chi sei, so che hai cancellato con un gesto i sogni miei. Sono nata ieri nei pensieri tuoi, eppure adesso siamo insieme. Non ti chiedo, sai, insieme a te. Anche solo Ed eccoci di nuovo in studio con l'amico Fabio Franzini per indagare questa condizione umana attuale che assomiglia tanto alla condizione di qualche decennio fa, se non ricordo male. Certo, certo, solo che adesso la cosa più drammatica è appunto l'indifferenza. Io in un articolo che uscirà in una rivista ho detto che questa è una guerra senza armi, con una ritirata drammatica come quella di Russia, però con meno freddo ma con più indifferenza. Quella del 17. E questa è la cosa più spietata, perché uno quando... dicevo prima di quando mia madre è stata un anno via da casa e noi eravamo tre figli piccoli, però avevamo una vicina che ci faceva da mangiare a mezzogiorno, un'altra che stirava, un'altra che lavava, un'altra che ci faceva da mangiare la sera. Una comunità è venuta in soccorso di una famiglia che aveva bisogno. È vero, una volta era così. Se sì. succedesse adesso, come per altre piccole o grandi disgrazie, ci accorgiamo che siamo soli. Sì. Questo è l'aspetto più drammatico di questa società. Specialmente attuale. Chi vive solo. Ancora di più chi vive solo. Sì. Certo. No, non c'è più quel desiderio di aiutare, di fare, no, devi chiedere se vuoi qualcosa. Bene, procediamo allora con... Sì, vorrei leggere altri 3-4 testi, così, anche per salutarci. Allora, vabbè, c'è un po' di tempo. Allora... Trazze. Trazze cosa vuol dire? Scusa. Tracce. Tracce. Ah sì, scusa. Questa è sempre da Muscio Eroe. Qualcosa. Come un muzzigotto e sigaretta schinzato in un portaciche bianco. Te l'unico tavolin libero fora da un caffè. E il fil de fun che ancora se leva sopra il filtro maciade rossetto. Un sbrodegotto de siera zadura zoda a pinzetta. Te n'accesa voda na sera. Intanto che dopo sti pin là, meda candea ancora continua al ciaro della sua preghiera. Oppure a zapega de una scarpa che par dispet par zogo, o par una perdita dei caibri un sburton, par sempre resterà fonda te una gettata de cimento. Presenze e za distanze. Trazze che qualcun lascia là, e che a noi altri ne fa pensare, immaginar. Un viso, una storia diversa dalla nostra, eppure così diversamente compagna. È il fatto di arrivare un fia dopo. È il fatto che qualcun altro arriverà un fia dopo de noantri, provando a pensare chi che sei era. Bella molto. Tracce. Qualcosa come un mozzicone di sigaretta schiacciato in un posacenere bianco, nell'unico tavolino libero fuori da un caffè. Il filo di fumo che ancora si libra sopra il filtro macchiato di rossetto. O una colatura di cera rappresa nel vassoio votivo in una chiesa vuota una sera. Mentre due spazi oltre mezza candela ancora continua il chiarore della sua preghiera. Oppure l'impronta di una scarpa che per un dispetto, una burla, o per una perdita d'equilibrio, una spinta, per sempre rimarrà impressa in una gettata di cemento. Presenze e già distanze. Tracce che qualcuno ha abbandonato lì e che ci fanno pensare, immaginare. Un viso, una storia diversa dalla nostra, eppure così diversamente simile. Il fatto di arrivare un attimo dopo, il fatto che qualcun altro arriverà un attimo dopo di noi, tentando di immaginare chi eravamo. Bella. Vorrei leggere ora una poesia dedicata al mare da uno che non sa nuotare. El mar, l'amor e amare. Cosa poderai o mai dirgli al mar? Un on che la remà sempre te a pianura. Che la rumà terra, servo dell'erba. Un che non l'è stata mai bonda imparare a nodar, a amar. Perché l'edifizio è sta ragae anche a ti oggi de una femmina, drento e sonde e soccorrenti. E il pol sol dar da lu. entrare camminando finché l'acqua che tocca a sbesso, sentire la sabbia sotto i piedi, come che sia ancora a terra, un'altra, più smorveda, più buona, e star là, con la testa fuori, come un putel col nasse, come che il mar diventasse una mare, fresca, quieta e zaccuna, sotto il sol o estee che è in corona. Bello. Ecco qua, allora facciamo la versione in italiano. Il mare, l'amore e la madre. Cosa potrà mai confidare al mare un uomo che ha remato sempre in pianura, che ha scavato la terra, servo dell'erba? Uno che non è mai riuscito ad imparare a nuotare, ad amare, perché è difficile restare a galla anche negli occhi di una donna, dentro le sue onde, le sue correnti. Può solo andare da lui, entrare camminando sino a che l'acqua gli sfiori il mento, sentire la sabbia sotto i piedi come se fosse ancora la terra, un'altra più morbida, più buona, e stare lì con la testa fuori come un bambino quando nasce, come se il mare ci facesse madre, fresca, quieta e già culla, sotto il sole o le stelle che la incoronano. Bella, molto bella, che questa. Poi, a me sono sempre piaciute le figure marginali, quelle che... Dei vinti, ma anche quelli un po' strambi. Ah. Difatti il prossimo libro che uscirà si intitola proprio Bestie e Strambi e parla appunto anche di questi personaggi. Ma uno di questi personaggi me lo ricordavo da bambino perché lo vedevo sempre passare. Io ero seduto fuori nei gradini davanti alla strada, sì, e guardavo le macchine che passavano, e passava anche questo vecchietto sempre con la bicicletta per mano. Non l'ho mai visto, come se la accompagnasse. Sì, sì. A bici. Non ho mai capito perché te avesse ciota che a bici. Te vedevi passare par de qua tignendo a pa manopoia, camminando, e andar avanti verso il tuo lavoro, verso l'ostaria. Mai ti ho visto saltar ghe sora, mai ti ho visto fracar chi i pedai, che i girei stess. Poi attacca a girare anche i pedai di a me vita, ho scominziato a correre drio ai sogni e l'amor. E non più tempo per sentarmi fuori a guardare cose che passea di qua, e i chi e i come che andea, che tornea, a volte imbriaghi, a volte cantando, bestemando, saudando. Non ti sei mai stato, o meglio, non te avevi mai visto, aspetta, come io che si dice, ah sì, pittoresco. Mai ti si torna a sbiego dall'osteria a sparar stramboti come Guerino e Cocchi e Rico, te che il dir baengo, che non altri boce ne fia così tanto da rider, che se imitea. Se simiotea in mezzo ai nostri zoghi. Ti te passea ogni tanto, tutto qua. Te passea con tuo bici par man, col tuo basket blè e il tuo silenzio. Così sol dopo un bel tocco, un anno forse, che non te vedevi più, gli ho domandato a me mare, ma così, tanto per dir qualcosa, neanche a curiosità. Come che se si parla del tempo, oppure se si dice che ora è io. Gli ho domandato notizie. Ah, Benito, alle bel che un anno quasi che l'è morto. Poi mi ha detto che te era mul, senza fradei, e che te aiutea la terra a far formai e buttiro. Tutta qua era stata, a tua vita. Ed es mi pense che abici, che te tignea sempre così lustra, a fusse stata a partis quasi che amorosa che non ti ha mai bu, quella che si porta fora a spasso, a sera, a brazzetto, un fradel, un amico, un fiolo, un can, in manco. E mi piacerà saper che fine che l'ha fatta che abici, se qualcun ha mai montà par sora, o se all'incontrario di ti drento de mi, a sei rudinio pudada a un qualche muro del tempo. Bella, mamma che belle che sono. La bicicletta. Non ho mai capito perché te la comprasti, quella bicicletta. Ti vedevo passare di qua tenendola per la manopola del manubrio e camminando andare verso il tuo lavoro, verso il bar. Mai ti ho visto saltarci sopra, mai ti ho visto spingere quei pedali che giravano lo stesso. Poi hanno incominciato a girare anche i pedali della mia vita. Mi sono avviato verso i sogni, verso il richiamo dell'amore, e non ho più avuto tempo da perdere per sedermi qui fuori a guardare cosa passava e i chi e i come che andavano, che tornavano, a volte ubriachi, a volte cantando, bestemmiando, salutando. Non sei mai stato, o meglio, non mi eri mai sembrato, aspetta, com'è che si dice? Ah, sì, pittoresco. Mai sei tornato ciondolante dal bar a declamare stramberie come Guerrino e Cochi ed Enrico, in quel dire bislacco che a noi fanciulli era così simpatico, che imitavamo, scimmiottavamo insieme nei nostri giochi. Tu passavi ogni tanto con il tuo baschetto blu e il tuo silenzio, così, solo dopo un bel pezzo, un anno forse, che non ti vedevo più, ho chiesto a mia madre, ma così tanto per dire qualcosa, neanche curiosità, come ci si parla del tempo, oppure ci si chiede che ore sono. Gli ho chiesto tue notizie. Ah, Benito? È ormai un anno, quasi, che è morto. Poi ha aggiunto che eri scapolo, senza fratelli, e che aiutavi il lattaio a fare burro e formaggi. Tutta qui era stata la tua vita. Ed ora io immagino che quella bicicletta che tenevi sempre così linda e brillante fosse stata per te quasi quella fidanzata che non hai avuto, quella che si porta fuori a spasso la sera a braccetto, o un fratello, un figlio, un amico, un cane almeno. E mi piacerebbe sapere che fine abbia fatto, se qualcuno gli sarà poi salito sopra, o se non come te dentro me si sia arrugginita, appoggiata ad un qualche muro del tempo. Bella, molto bella. Ci fermiamo un attimo e ci ascoltiamo la quarta canzone in programma, che è Cavallo Bianco, cantata da Domenico Modugno. M'hanno lasciato solo in mezzo al campo, vorrei gridare aiuto, sto morendo, tra il rosso dei papaveri e di grigio, e la pietà festosa degli uccelli, ma d'improvviso appare un cavallo bianco, è il mio delirio che mi fa sognare, io salto in sella e andiamo a galoppare, laggiù dove mai più ritornerò. Corri, cavallo mio, lungo i sentieri della mia nostalgia, corri, perché laggiù puoi portare solamente tu. Guarda, lo vedi il mare, lasciami lì vicino a quel casolare. Guarda, l'amore mio, com'è carina in questa fotografia. L'ho accarezzata troppo con le mie dita, per questo adesso sei un po' sgualcita, ma di presenza è più bella ancora. Casette bianche sulla collina, prendi quella stradina che porta proprio in fondo a casa mia. Vedo mio padre che sta lavorando, mia madre in casa che sta pregando, cucina e piange pensando a me. M'hanno lasciato solo in mezzo al campo, i miei compagni mi han dimenticato, mio cavallo bianco se n'è andato, è troppo stanco ormai per galoppare, il cielo intorno a me. Eccoci di nuovo in studio. Allora Fabio, stavi dicendo che hai un altro libro in cantiere. Sì, ho questo libro che si intitolerà Bestie e Strambi, che è una plaquette, una ventina di testi, dove rispondo ad una domanda che mi hanno fatto in qualche intervista: quali sono i versi fondamentali per la sua formazione poetica? E io rispondo in questo libro che i versi non sono quelli di Dante o di Omero, ma sono quelli delle bestie e dei matti, per dirla, quelli formativi, che ancora avevano un ruolo nella società di quando io ero bambino, erano integrati nella società, anche se erano un po' strambi, anche se erano un po'... Però, mentre questo tipo di società li sta relegando, snobbando, sì. Come anche i portatori di handicap, avevano purtroppo un loro... Non occorreva che andassero in questi luoghi dove gli fanno far qualcosa. Nella famiglia e anche nella comunità, uno dei miei amici più cari era un ragazzo down, per dire. Cosa che adesso non c'è più posto, insomma. No, adesso chi ha un handicap va in queste cooperative. Brava, perché fare qualcosa. Sfuggiva in queste cooperative. Sì, queste cooperative a fare qualcosa. Quella anche è diventata la comunità, in effetti, lì sì. Si dice comunità. Perché anche per tenerli un po' impegnati, certo, anche perché certo. Imparano anche a stare con gli altri, perché tante volte in famiglia magari sono un po' isolati. E ho l'impressione che siano gli altri a dover imparare di come stare con loro. Soprattutto. Non lo so, perché comunque... Abbiamo ancora spazio per... Anche sì. Per chi ha un handicap c'è tanta indifferenza, non c'è comprensione, non c'è... È difficile, ecco. È penso che per uno che abbia un handicap sia difficile l'inserimento in società, a meno che non abbia un carattere talmente che riesce in qualche modo. Sì, a essere... però vede, adesso io lo dicevo proprio l'altra sera, ho fatto una lettura per l'ANMIL, l'associazione dei mutilati invalidi del lavoro. Sì. E si parlava di handicap. Io ho detto che una delle nuove forme di disabilità è quella di non aver lavoro, che è altrettanto limitante come qualsiasi altro handicap. Questo sono convinta. Ormai, caro Fabio, il tempo a nostra disposizione è scaduto. Una breve poesia. Ecco, allora salutiamoci con una poesia. Va bene. E allora parlerò proprio della crisi. Desche del miracolo le resta sol che l'eco zigapa piazza e bar. E il nord-est le torna a essere un grunde paesi persi del caivo fra strade e capannoni stuadi. E il sant le passa via chiamando un brutto nuvolo nero da tempesta col suo vecchio pastran da pantaon. Se spetta i graniti a testa, sperando che Dio epi remission delle nostre vite senza casco, senza paracadute, intanto che se casca drento stu buron scuro, fra boete che zoia come foglie di un autunno da lutto. E man come forche buttate de notte drento il pozzo. Grazie. Bello, bravo, bravo, bravo. Complimenti diciamo proprio. Una sintesi, un distillato di quella che è la situazione attuale. Purtroppo il tempo è tiranno. È tiranno e noi siamo arrivati alla conclusione. Noi ti ringraziamo tanto. Io ringrazio grazie voi tanto. Di questa prima volta, prima, ma noi contiamo di averne appunto, altre. Appunto. Bene, allora ringraziamo ancora il nostro Fabio. Grazie a te Antonio. E ringraziamo la nostra Madame Verduren anche naturalmente, certo, per la sua compagnia. E salutiamo la nostra Lia De Martin, la nostra Madame Verduren, e come sempre vi dico ciao ciao. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Questo programma lo puoi riascoltare su bluradioveneto.it.